Con Claudio Casale, regista del documentario Mike Tyson, che sarà in prima nazionale a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, il prossimo 16 ottobre. Claudio, ben trovato. Ciao Federico, grazie mille. Raccontaci. Beh, per noi insomma domani sarà una giornata importante. Mike Tyson è un documentario cortometraggio che ha partecipato alla mostra di Venezia nella sezione Migrarti e ha vinto il premio di miglior documentario. Domani sarà la prima volta che lo proiettiamo a Roma, dove poi il documentario è stato girato. Parla di Aloma Tyson, che è un giovane ragazzo italiano, figlio di nigeriani, che è cresciuto a Tor Bella Monaca, e Tyson, come poi il nome un po' insomma lo forse l'aveva predestinato, è un pugile, ed è, diciamo, non solo un pugile, ma è il campione italiano nella sua categoria, che sono le giovanili degli 81 kg. E la storia perciò tratta di lui, ma lo fa da una prospettiva, diciamo, particolare, perché mette a confronto la madre, che è una nigeriana, una donna nigeriana venuta in Italia nel 92, con Tyson, che invece è un ragazzo appunto romano con un accento molto più forte del mio, e proprio nel confronto delle due generazioni che si sviluppa la storia. Partiamo dall'origine, come è nato tutto. Beh, noi insomma siamo entrati in contatto con Tyson dopo aver visto anche che insomma, se ne parlava su alcuni giornali, su Repubblica, legata allo Ius Soli. Tyson era già diventato campione italiano, ma non avendo la cittadinanza italiana, perché ancora minorenne, non poteva gareggiare. Perciò uno dei paradossi, diciamo, italiani di questi tempi. L'ho contattato per quello, ma poi il bello è venuto dopo, perché mi sono reso conto che la storia non era sullo Ius Soli, ma era proprio sulla sua famiglia e la loro identità. Considera, per girarlo io, prima di girare una singola immagine, un primo frame, sono stato con loro per quasi 5 mesi, in cui insomma sono addirittura arrivato a prendere qualche lezione di pugilato con loro, e ovviamente lo spettacolo era ridicolo, perché chi mi conosce lo sa che io e lo sport andiamo proprio poco d'accordo. Però per dire che tutto questo rapporto, cioè quello che nel documentario non si può, diciamo, vedere, perché quello che c'è stato prima, in realtà mi ha aiutato a vedere la storia, perciò entrare in un contatto, in una relazione che andava ben oltre i temi politici di superficie, per scavare a fondo e di conseguenza individuare proprio in questa storia della madre, che è una storia struggente, perché è una donna che dal 92 oggi, da quando è venuta in Italia, ha vissuto di tutto, e ovviamente il figlio è una rivalsa, ma lo è per noi, diciamo, se vuoi, in senso lato, come italiani, perché è un modello di integrazione, ma per lei, con quello che ha vissuto, di cui lei nel documentario parla, è un qualcosa di eccezionale avere oggi un figlio che rappresenta tutto il nostro paese. Ecco, cosa ti ha impressionato della sua vicenda e di questo nucleo familiare? Beh, guarda, ti dirò innanzitutto il livello di integrazione e di emancipazione. Cioè, la storia è ambientata a Tor Bella Monaca, ma io ho incontrato un quartiere che esce molto dai soliti cliché della periferia, del degrado, del disagio, delle droghe, bla bla bla, che vediamo tante volte. Io le situazioni che ho trovato sono state situazioni di enorme integrazione tra, per esempio, c'è la comunità nigeriana di Torre Angela che ci ha accolto e che noi mostriamo nel documentario, cui si riuniscono in chiesa ogni domenica, noi li abbiamo filmati, ma sembra di stare a Brooklyn, perché ci sono appunto centinaia di persone molto emancipate, lontane dal disegno dello straniero che poi ci viene spesso propinato in questi giorni. Parliamo di persone che sono qui da 20 anni, che hanno dei loro lavori, pagano un mutuo, hanno delle automobili, hanno una vita che è una vita, diciamo, dignitosa. Dall'altra parte la palestra, che anche quella è una piccola palestra, la palestra Box Torre Angela, che però di campioni ne ha sfornati tantissimo, perché pensa che agli europei di quest'anno giovanili hanno vinto 4 medaglie, solo questa palestra, tutta Italia ne ha vinte 6. Perciò parliamo di grandi numeri. Direi che questa è stata l'emozione più forte, cioè il vedere che gli stereotipi, le idee, quello che uno si aspettava durante quei mesi di sopralluoghi venivano costantemente sfatati, e questa, per dirti, è stata un'emozione sia mia che anche della troupe, che ovviamente è arrivata in un secondo momento, e ho visto anche in loro rivivere quelle emozioni che erano state le mie originariamente. Cioè, di rimanere così dal livello di modello di integrazione che c'è, il modello di accoglienza, di emancipazione, di cui purtroppo non si parla. Questa comunità nigeriana è consistente come quantità di persone? Sì, io considero sera li ho visti appunto innanzitutto, cioè intorno poi al luogo della chiesa, e in chiesa si parla appunto di diverse centinaia di persone. Io non, immagino che non tutti quelli che fanno parte della comunità fossero necessariamente lì. Di Certo. conseguenza è stata, ma mi si è aperto un mondo quando sono entrato lì. Poi Tyson me l'aveva detto così: ma se vuoi vieni domenica che ci sta una messa, forse ti interessa, chissà. Sono andato lì con zero aspettative, così tanto per, mi sono trovato dentro un mondo che magari lo si sapesse, perché se c'è questa di comunità ce ne sono molte altre ovviamente, no? Però forse se ne parla troppo poco, e credo quello è stato un po', poi è diventato un po' il cuore del mio progetto, cioè cercare di andare oltre a quelle che erano, diciamo, necessariamente le aspettative che ci potevano essere su una storia di un pugile a Tor Bella Monaca, ma guardare quello che trovavo e che mi rendevo conto, insomma, sono cose che raramente si vedono purtroppo. Sì. Come vive il tuo protagonista questa realtà di cittadinanza e di documenti? Beh, guarda, questo anche è interessante perché era uno dei miei primi punti, quando l'ho incontrato, e in realtà la risposta è che, insomma, non è che fa questa grande differenza, nel Ok. senso che l'integrazione lui mi ha insegnato va ben oltre la cittadinanza, perché considera, Tyson è nato qui e tra l'altro non ha mai visitato la Nigeria, di conseguenza è proprio italianissimo, romanissimo. Per dire, quando sono usciti i primi articoli su di lui, prima che io lo incontrassi, ha dovuto vivere questa ormai, no, sensazione comune degli haters, i cosiddetti haters, che lo hanno attaccato sui social, dicendogli di tutto e di più. Perciò, diciamo, ha avuto questa prima esposizione pubblica che non è stata positiva. Da lì a poco è arrivata la cittadinanza, ma per quello che lui mi riferiva non ha mai fatto una grande differenza, perché, come mi diceva lui stesso, cioè, la cittadinanza è un foglio, ma se poi tu mi tratti come mi tratti, vengo trattato come vengo trattato, vengo visto in questo modo come un non italiano da tutti, a me interessa poco, soprattutto per lui che ha anche, diciamo, la pressione ulteriore di dover indossare la maglietta dell'Italia. Di Sì. conseguenza, lui, il nostro paese, per avere 18 anni, se lo ritrova a rappresentare molto più di quello che, per esempio, è stata la mia esperienza come 18enne. Di conseguenza, ecco, un'altra cosa, questo è importante, cioè l'integrazione. Lui mi ha insegnato, non finisce, non arriva allo ius soli, ma la cittadinanza semmai è il primo passo, ma poi ce ne sono molti altri che dobbiamo fare. Claudio, ci lasci i riferimenti web per saperne di più su questo tuo lavoro? Sì, allora, adesso che è appena uscito, innanzitutto trovate tutto quanto sul mio profilo Facebook Claudio Casale, che tra l'altro è pubblico. C'è un evento per la giornata di domani, che è appunto, come dicevi, al nuovo cinema Aquila, e c'è un evento su Facebook, e per il resto c'è un sito in costruzione che di conseguenza ti aggiornerò nelle prossime settimane appena è terminato. Bene, ricordiamo l'appuntamento con il documentario Mike Tyson a Roma, al nuovo cinema Aquila, prima nazionale, 16 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al regista Claudio Casale. Claudio, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te, grazie, un grandissimo abbraccio e buon lavoro. Ciao. Ciao.